A suo tempo ne ascolterete le qualità. C'è un andante di un gusto tutto particolare. Posso dirvi, cara Madame Hagenauer, che Dio fa compiere ogni giorno nuovi prodigi a questo bambino. Da ora, quando torneremo a casa, sarà in grado di prendere servizio a corte. Accompagna sempre con precisione nei concerti. Trasporta a prima vista le arie che deve accompagnare e legge subito i brani che gli si presentano, siano italiani o francesi. Qui a Londra, il re Giorgio III gli ha presentato pezzi di Johann Christian Bach e di Handel. E lui ha suonato tutto a prima vista. Ha suonato l'organo in modo da farsi apprezzare più che al clavicembalo. In una parola, quello che sapeva quando abbiamo lasciato Salisburgo non rappresenta che l'ombra di quanto sa ora. Mozart ha 7 anni e ha già molto viaggiato quando viene edita la sua prima opera. 2 sonate per clavicembalo che possono suonarsi con voce di violino accompagnante. Sono stampate a Parigi, dedicate a Madame Victoire de France, figlia di Luigi XV, e messe in vendita a 4 franchi. Non si può giurare che la mano paterna sia del tutto estranea. L'andante, cui si riferisce Leopold nella lettera, è quello della sonata in re maggiore K7.